Roto. Passaruttori per Paolo, dai. Va bene, se sì, alle prossime per mettere il piatto, dai, ce la riascoltiamo Capri 2, dai. Con buongiorno, dai, salutore da questa parte, dai, ce la riascoltiamo per le prossime. Ciao, buon carica, buon tutto, salutore a QRA familiare, ciao ciao. Quello le manderà. grande laterale, non ti preoccupare Luca, già me le faccio io. Capito, vai, io a questo punto già, niente, basta, prenderò una parata come si deve e basta. Però quello con la bandiera carica sta pure su linea. Mi interessa, quanto costa? 500 euro? No. Però detto, se ci mettiamo ancora ti prendo il mio. Guarda, a questo punto sono lì per lì perché, cioè, per prendere l'apparato che non posso salire sulle bande laterali, che poi dice che non posso neanche entrare, a quanto pare. Ecco, te la posso dire una cosa? Dimmi. Cosa te ne fai delle bande laterali? Come ne faccio? Dimmi cosa te ne fai delle bande laterali. Entrare in bande laterali. No, cosa te ne fai delle bande laterali? Cosa me ne faccio? Mi rispondo io, per farci di ex. Per farci di ex in bande laterale? Ma cosa si dice? Ma se non si usano quasi mai le bande laterali, cosa te ne fai? Non mi interessa a me, lui è libero di fare quello che vuole, però se le bande laterali alla fin fine non ti rivelano più nulla. Gappa gappa. Io gli do il consiglio contrario. Di prendersela con le bande laterali, così almeno c'è un'altra ricca completa, buonanotte, e fa una spesa unica una volta e non sta a comprarsi nemmeno gli apparecchi, perché poi la pretesa ce l'avrà per le bande laterali, magari se entra le bande laterali lui non comprende l'uso, non può entrare, eccetera eccetera, d'estate si usano le bande laterali, io perlomeno li uso. In genere, quando si fanno i DX, già, siamo sempre nel 45, cose del genere, bande laterale facci pochissimo. E già lo sai, meglio di me, ma comunque, chi vuole, se ce ne vuole prendere bande laterali, comunque è libero di fare quello che vuole. Non è la stessa cosa, ma bande laterale, se uno sa parlare due lingue e cosa, ci sono quelle di nazionalità in più, vai sui 12 sopra, e bande laterale, fa la chiamata e poi ti trasferisci il canale, quello è il canale in chiamata. Ci sono tutte le nazionalità, non c'è solo la Sicilia o i canadesi che fanno casino, è una cosa diversa. Oddio, se sali adesso nel 45 e vai in banda laterale c'è gente, se vai nel 12 di chiamata c'è gente in banda laterale. Però, certo, è raro che trovi qualcuno che parli in italiano in banda laterale. Infatti, se non sa parlare le lingue, bisogna andare lì. Infatti per quello le diciamo, quello te ne fai delle bande laterali. In banda laterale, cazzo, sono tutti tedeschi, inglesi, polacchi, Siria e basi, Polonia, tutte le lingue di Russia, due lingue, non le sa fare metà. Uno che è spagnoli, roba del genere. Vabbè, poi sono quello delle bande laterali. È libero di fare quello che vuole. Io vedo il motivo, cioè io adesso non per entrare nel discorso, allora io le scuole le ho fatte, qualche lingua l'ho studiata, penso che non sia così ignorante in materia riguardo alle lingue, dai. No, forse ci siamo frattesi, tu l'inglese lo parli tutto? Sì. Da tutto? No, buono, comprati il barattino con le bande laterali. Tipo, capito? Non solo l'inglese, anche il francese. Ma quando siamo un amico in due periodi della Sardegna che ti fa bene? Va bene, io non ho letto ignorante comunque. Io secondo me, il mio parere personale, per la cifra che sta spendendo per quell'apparato, prende pure un paio di buchi. Perché secondo me dalle bande laterali non ti rimango più nulla. Per me, poi. Ognuno con i soldi suoi li puoi fare quello che vuole. Cappa Roggio. Cappa e poi Roggero. Cappa Roggero. Comprati quello di Gianni e si a posto, è completo di tutto. Bande laterali, canali, andi in ditti pari di Biasi. Comprati un alimentatore più grosso. Ho fatto un prezzo buono io. Ho accettato, più per lui. Non compro la gara e le bande laterali, ma con che zero ci nesci. Ma ciò va bene. C'ha problemi, poco a poco spostato in LSB e un pochettino, un po' su SB. Ma voi questo lo sto modulando io, lo fai che? Problema, non c'è problema, lo lo prendo nuovo, capito? Lo prendo nuovo e ciccia. È nuovo, beh. Questo c'ha le bande laterali e c'è il canale sotto e sopra, prenditi di fare di piatti. Problema, non c'è problema. Ma se vuoi, ognuno può fare quello che vuole sugli, da sugli gruppi, però non credo, guarda, lui come anche non si può salvare il magnum, come apparecchiatura tipo questo qua, eh. Cioè il magnum sono i di più frequenza, la camera ecco, sono queste cantatine qua, però manacchini così non faccio per i truffi, nuovo, un difetto in Ibai, se spendi un po' di soldini allora sì, con i truffi. Beh, se spendo bene, cosa dici Luca? Non so, ma fate il conto, fai che ne spendi 350, ok, solo per la parecchio, eh. In più ci raggiungi da altri 50, 60, 70 euro per l'alimentatore. C'è una bella spesa. Eh beh, se sta spendendo spendi bene, no? Da base, nuovo. Questo è un radioattore, però non lo utilizza, lo guarda a me. E mica lo utilizzo, io lo metto qua per fare ascolto. Però la ce l'ho. Bene, va bene. Sono contento per te. Positivo, Positivo. Comunque, a me fa una bella domanda lì. Io lo voglio lavorare per accimolare dei soldi, insomma, per non... meglio, cioè spero, vedo questo qua, così non metto più di tasca via, e appunto c'è per questo lavoro da parte, ogni tanto l'attacco, oppure questo qua faccio una cosa, guarda, stavo pensando, qua ci metto quello che devo comprare, non lo so ancora quando, metto un tanto nella, dove c'è l'entrata dell'antenna, e questo qua lo metto dall'altra parte, così ogni tanto ce lo siamo uno nell'altro. Ti andrà bene, 3DN, va benissimo. Dica. Prendi un attimo la decisione, non ti fare prendere da nessuno. Prendi un attimo la decisione, noi così te l'abbiamo dato, poi quello che vuoi fare è anche la possibilità che hai di comprare la roba, e devi vederlo tutto quello. Io non so che tipo di possibilità abbia, però se io ti consiglio, secondo me, se tu non hai fatto tutto di completo dall'inizio e non fai più spesso, poi non ti accontenti, lo fai anche con la banda laterale e spendi altri soldi. Secondo me ne prendi uno, anche se non la usi ce l'hai e quando ti serve la puoi usare. E infatti, è quello che sto pensando, capito? Non voglio prendere uno e basta, non voglio spendere altri soldi qua, ne prendo uno, mi prendo l'alimentatore, capito? Gli atterrò qualche antenna un po' discretamente via dicendo, e ne prendo uno e basta, capito già? È questo che voglio dire. Via fa già. È tutto qua il discorso, spenderò un po' di più, però almeno ho un palazzo unico e basta, capito? Capito, purtroppo è così, io adesso mi sono rotto le palle, prendo questi apparatini, cosa fare, tutto, ma poi magari se devo salire qualche palla, non posso salire, allora rimango rimosso, invece ne voglio prendere uno e troppo, basta. Infatti, secondo me è la cosa migliore. Io sto dicendo, prendo, qua c'è una spesa unica, non mi interessa niente, a posso spendere 500 euro? Però c'ho una cosa unica, capito? Ok. Come vuoi tu, sapete, vuoi prendere un apparato magari che abbia 400 canali o roba del genere, non ti interessa la banda laterale, prendi quello. Spenderai di meno tutto quanto, però hai anche di meno. Appunto è quello, capito, il discorso. Capito, se io voglio prendere un apparato, lo voglio prendere buono e basta, farò sacrifici, non me ne frega niente, però voglio un apparato unico, capito? Paga. Userò la BM, prenderò un altro apparatino per la BM, se tragano quello che sentono. Non so se una parte l'ha modificato, non so. Topolini del Valle. Comunque era un signore apparecchi, usciva benissimo, colpi non le prendeva niente. Era guarda, apparecchi veramente no. E questo qua, io è simile. Questo è completo, praticamente c'è la sua strappa, c'è la sua manopoline 4, microfono originale non ce l'ho. Questo manovato senza microfono originale. Era un microfono nero sempre, poi mi c'era rotto. Questo qua, questo bisogna fare degli accorgimenti, se li metti dentro, sono, non so come stavano fanno. Comunque si può anche, diciamo, attenuare i colpi, ecco, non so cosa ci va dentro. Si può anche fare su questo, che è un signore apparecchio, perché è allucinante, va troppo bene. A me il problema è andato una volta di Smith, mi sono inciugato. Adesso l'ho cambiato, adesso la Maria mi ha chiamato. Non ho problema, vabbè, le mande, perché questo qua è un signor apparecchio. Allora, ma lui lo vuole con le bande laterali, con lui la banda laterale non è che funzioni bene, ecco lui il problema che c'ha con l'apparecchio lì. C'è la banda laterale che non funziona e bisogna andare al buio. Sì, appena riesco a fare quello che devo fare, questo lo do a persone competenti e non lo faccio riallineare. E ti molto meglio che avere un buio banda laterale. Ma non lo do più, assolutamente. Guarda, ci riesco a trovare qualcuno che mi faccia i tappi, come dico, comanda, penso un po' così i tappi. Cioè noi sono messi male, comunque vogliono riprendere i chatti. E lui quando mi dice che è una meraviglia, sono garantisco io, fidati. Poi questo qua la mano non esce più, neanche ci vediamo 500 euro. Allora io l'ho adattato in riserva, non ha cavato più, ha detto che non si poteva toccare, perché se tocca per la banda laterale, mandarvi praticamente in tizio di altre banda. E tu vuoi dire si può fare, vai tranquillo, fidati, si può fare. Io te lo auguro, però lui a me mi ha detto così, mi ha detto già, non si può fare nulla perché se io vado a allineare questa banda qua, poi vado in tutti le altre. Ma magari lo devi allineare, non ti devo fare. Ma io non so chi è, lo so io a chitarlo. Tu cazzo ci prendo. Ma faccio qua. Buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Buon appetito, allora, sentiamo. Ma tu, stavo parlando. Ecco per me, ciao Antonio, buon pranzo, anche io faccio il correttivo, mi devo a preparare, là. Ci sentiamo ragazzi, ciao. Ciao Massimiliano, buon appetito. Massimiliano, buon appetito, e ciao Antonio, buona carica. Gava. Ciao a me. Falche, già lo so io cosa vuoi dirmi. Poi ammetti che ci sia qualcuno che manda la tele d'estate, se non riesci a passare quel canale lì non comprendi nulla delle africane. Ciao Salvini. Raga, va avanti Salvini. Vedi? Vabbè, non riporti. Avanti Falchetto di nuovo, vai. Ma tu quando hai previsione di prendere questa apparecchio? Io adesso le previsioni saranno verso lunedì, massimo martedì penso, vabbè. Vedi tu perché? Io qua ce l'ho uno di 6 mesi, nuovo, se non sto vendendo, se ti interessa, te lo fai sapere, se no paziente. Se no vedi tu come comprarlo. Io ci ho scatole tutto di questo, garanzia quanto c'è. Di quello che stiamo parlando con le bande laterali. E deve essere nuovo. Ho capito. Così è. No, se la voglio fare la spesa, la voglio fare come Dio comanda, capito? E poi può andare lontano. Allora prendetene uno con le bande laterali, completo di tutto. Perché già almeno fa una spesa una volta e la avrai mica. E c'hai tu le bande laterali, c'hai già. C'è tutto questo, c'è bande laterali. C'è un sacco di canali, positivo, casomai sali tu a vederlo o lo porti tu a vedermelo, ma no, cioè magari tu non lo puoi portare, sali tu a vederlo, dai, già, cosa vuoi dire? C'ha tutte le luci blu, quando parli diventano rosse, cioè è una canonata da parica, non è roba di notte. Positivo. E quando, vabbè, quando io avrò le disponibilità, diciamo, il più presto possibile, quando le posso venire a vederlo? Non ti pare, va. Da far oggi. Da fare oggi, no? Te lo posso fare anche funzionando, quindi non c'è problema. Funziona tutto e per tutto, non c'ha nessun difetto, niente. Io non mi do più di dubbi. No, non sto dicendo quello, ma già, per carità, ci mancherebbe altro. E tanto, se mi butti una volta, a voi non mi butti la seconda volta, no? Ma non sono una persona, io, a me mi piace tenermi il mio vicino, non perdermi per cazzata. Se non andrà sempre, non trovare. C'ha 6 mesi di vita, non ti dico altro, ma guarda, te lo posso far sentire, sicuro, non c'è problema. Vabbè, se ti va, me lo fai sentire. Aspetta, dammi 5 minuti, te lo faccio sentire. Siamo qua, tutti nascosti. Attenzione, Falchetto, cap. Stai uscendo da Pischia, no? Perché avevo l'attrattore che ho acceso, rapido, rapido. Guarda adesso, come sta andando, bravo. Attenzione, Falchetto. Oltretutto c'è anche il parlascolta questo, e mentre parli ti ascolti. Capa, no, mi sembra buono l'apparato, vai, mi sembra buono. Guarda, segnale, com'è? Con questo microfono normale, non è che abbia un microfono amplificato, è normale. Oh, capa, la radio è buona, la radio è buona, dai, è certo. Beh, comunque, vedi tu, questo qui ha anche il parlascolta, se lo regoli troppo alto ti faccio col fischio, però se tu la passi appena, esci normale, poi lo fa all'inizio, poi come spalla non lo fa più. Niente, devo venire a vederlo e ciccia, dai. Questo qui bisogna anche conoscerlo, però ci sono tutte le istruzioni, te lo guardi, lo guardi. C'ha il filo a cavo lungo, è un apparecchio come si deve, non è una cagata. Positivo, dai, positivo al 100. Già vorrei vederlo, dai. Vedi, lo vedo. Cappa, ci metteremo d'accordo, così vengo a vederlo, capito? Non c'è problema. Già va bene. Io non mi posso muovere in questo periodo, però se tu vuoi venire molto così del genere, vieni, non c'è problema. Cappa, non sono le tue coordinate, comunque già quando sarà mi dirà le tue coordinate e vengo io a vederlo, vai già. Via. Tutto c'ha due attacchi per microfono, uno lo puoi mettere normale e l'altro amplificato. Poi vedo due microfoni e un apparecchio. Capparocci. Ascolta, ma l'alimentatore di quanto lo devo prendere? Io l'ho preso di 28 ampere. 28 ampere ne assorbe comunque, sto guardando, 5 ampere. Solo 5 ampere assorbe. Allora basta un alimentatore da 10? Ma se lo prendi più grande è meglio. Perché c'è un alimentatore che ricordano da 10, poi in effetti non ti ricordano 10. Capito? Come un switch come il mio, 28 ampere, che va la grande. Ma che cosa il switch? Ah, mi pare che dice anche 90 euro, con 100 euro, compri anche, se vuoi quello da 28, se vuoi quello più piccolo costa di meno ancora. Ma dipende, niente, dipende quanto assorbe la radio e se quello più piccolo va bene o devo prendere proprio 28 ampere, capito? No, penso che anche più piccolo vada bene, però io ho quello grande, me ne so ben 5, là. Se ne so ben 5 ampere, e va benissimo, quindi. Bene, bene, già, verrò a vederlo al più presto, Cosa? E verrò a vederlo al più presto, mi dà le coordinate, poi che lo sa per farlo, magari su quel telefono mio, mi fa un ambascio subito e ci vediamo magari, capito, in verticale. Ciao Barocci, bene Neda. Poi deciderai tu, io non so cosa dire. Se te lo prendere nuovo, prendete la nuovo. Tanto a me qua non mi chiede la maniata. Però se riesco a vendere, non vendo perché devo prendere un altro apparato. K. Va bene, dai. Adesso lo guardiamo e poi vediamo un po', dai. Capito già, non c'è problema. Ehi, già. Guarda, questa pericola non sta che Tonino, chiedi a lui. Positivo, dai. No, già mi fido di te, non c'è problema, dai. Non c'è problema. Convertito tutto, c'è il frequenzimetro, il canale a fianco, lo Smith rotondo americano, è di lusso. KK, se arriviamo a vederlo, noi faremo l'affare ciccia, e se ne è, e c'è problema lontano, dai. Vedi tu, io non obbligo a nessuno, tu lo guardi, se ti piace, non c'è problema. Te l'ho detto già, se io la spesa la faccio, la voglio fare una volta e che sia per tutte, capito? Io questo non lo uso quasi mai, io uso sempre l'altro, ce lo sai. L'ho attaccato per fartelo sentire, questo è un bel potente, mi sembra di fare. Capparocci, lo vediamo già, lo vediamo così ci mettiamo d'accordo. D'accordo. E meglio, adesso se vuoi rientrare col tuo normale va benissimo lo stesso, dai. Posso lasciare anche questo, mi riscalda un po'. Positivo accento. Purtroppo poter andare a mangiare, quindi. Non c'è problema. Ne veda. Già, va bene già. Ne veda. Che bene che è. Così. Allora, oggi porcetto già. Oh, non lo so cosa ha fatto. No, sento roba di arrosto quando so cosa abbia fatto. Positivo. Ma adesso puoi mangiare un po' di tutto, sì? Sì, adesso sì. Ma sto facendo sempre dieta, sempre poca roba. Che abbagliava, va bene. Poco di tutto va bene già, poco di tutto. Tuo figlio come sta a proposito? È già febbrato, stanotte è stato un po' male. Allora tu sei forte, insomma. Ora, ora. Bene, Meda, bene, Meda. Ma direi anche di cambiare l'antenna, cosa dici tu? Oh, già. Se metti un'antenna migliore, una resa diversa. No, per il momento puoi tenerla, poi quando c'è un po' di soldi in più, magari. Scappa, che positivo. Per il momento puoi tenere quella lì. Tanto c'è una, sempre di questo c'è un apparecchio come si deve, quindi la resa sarà già diversa. Uscire con 3 watt, uscire con 50 o 40, che siano, è diversa la resa. Cavarocci. Cavarocero. Chiamma. Buono. Tu hai mangiato? Allora, io voglio un ghito. A mezzogiorno? Vivo. Magari. Come va così presto? Io sono abituato a mangiare presto, poi faccio il pisellino, e c'ho tutta la sera libera, capito, per i fatti miei. Ho ragione, anche perché dice i scimiti. A parte quello, ma io sono abituato agli orari del paese, capito? Dalle 6 il pomeriggio si mangia, poi c'è tutte le ore per poter digerire, capito? Però anche a lavoro deve essere così, a mezzogiorno smonti, così. Ma lavoro negativo, lavoro smonto all'una, capito? Però mangio pochissimo, al lavoro mangio pochissimo e ne rifaccio la sera, capito? Vabbè, lavoro, poi ti verrà la sonnoletta, se mangi tu poi che ci dà anche il gruppo. fa così. Ma sei allerta. Avanti, Natale, dimmi. Allora qua siamo, mangiato? Così. Oggi mangio a bebito. Bella. Mangio gusto di sicuro goccio di bollo. Mangio gusto. Tu sei però, mi l'ho preciso, no? Tu pensi che era la goccia. E così è che mi piace, non mi piace. Ma che mi piace quella codetta che c'hanno? Due me ne ha fatto di quelle. No, mi ha giocato la bacca asciutta, l'ho battata, mi ha giocato insomma, mi ha giocato a mangiare, mi di vino e via, non è col tango, ma ci fatto un caffè. Ha fatto due. Sì, vabbè, qui si sciolo già fa in fretta. Noi è che dobbiamo aspettare, perché se quando cucina mia moglie io resto a aspettare. E via. Me la mette nel buco la televisione del giornale, assurda, ma me ha sbagliato, non mi so più un panoggi. Magari si sente che cucina la televisione. Sì, appena appena non di tanto. Vabbè, il 48 è tornato te la. La salita che non ti mangi il brodino di mamma? Chi è questo? No, ma te lo mangi tu, hai capito, però beh. Giusto, Maria, consensuale. Quando mi dici così, capa, io ti temo a te. Alessio, caro caro, quando ti trovo, capo, guai, eh. Ah, c'ha senso. Cosa ricordo già, già Alessio, quando era ciappo? Cosa le vuoi fare, tu lì? Dai, sono qua, se mi vuoi dare la figura sarica. Ma se guascio, Marchito, mi Alessio, e saluto Alessio, buongiorno, buongiorno, non si bisogna, no? No, mi sono detto che mi sei meglio, io notte mi sono addormentato, che sono mal di lì, mi sta del guascio, mi stavo la dentiera, mi stava facendo male. Spera. Ah, ma bianco l'attimo. Via, via, da me. Le prendi... Salutoni a Tarino, Salutoni, salutoni a tutti, a todos. Bene mesa, a todos, saludos. Buona gara, mi spiegaglielo già. Cosa ci vuole per avere un maracchino che ha le bande laterali? Perché qualche come non è qua di queste cose. Io glielo ho spiegato, glielo stavo già spiegando. Che se lo prende, secondo me lo dovrebbe prendere completo, gli fa una spesa unica e poi almeno non deve spendere altri soldi, se no poi è la porra, se sente i dati della banda laterale che lo disturbano, che non può andare, gli viene la porra di comprare solo la banda laterale, perché è cose che abbiamo già vissuto noi. Guarda, aspetta, io lo faccio sentire, amico, da fa la banda laterale, lui non capisce un cazzo. Sì. Grazie Natalino. Sì, un attimo, eh. Qua è Natalino. Ti fai cosa ti ha detto? Alla lea del culo. Ma siamo in buona presa già. Che c'entri senti la voce di Russo, non è come queste frequenze che tu giri il canale e ti trovi la voce uguale come se di persona. E in grado laterale bisogna centrare col frarifetto. Una volta che c'è entrato senti la persona va bene, dai. Scappa. È così che non ci sarà né più coccodile né coccolato. No, così no, ok. E poi costano un sacco di soldi per gli apparecchi lì. Adesso vediamo Gesù Bambino cosa mi regala per Natale. Kappa Kappa. Meno male che me li ho venduti quei due io. Così stava a te, guarda via Bubona io. Ah, venduti te già. Allora, ci aspettavo a te, se tu dici Kappa che ti vuoi via nuovo, via di nuovo, via di me li ho venduti. Vabbè. Se portava a te, lei non moriva a risa. Tu non sei tranquillo come cosa, se avevi dato la parola a me, tu lo riprendi da me, boh. partito. Io gli ho sentito così, mi è uscita la situazione, me li ho venduti tutti e due, capito? Me li ho venduti. La pagava. Non sai quanto costa la GBC, quello che ti volevo dare io, 150 euro, 230 euro, normale, senza nessuna modifica né nulla, 230 costa. Mi già ne sa qualcosa Gianni. E ai evani ci sono? Una farmacia. E infatti, ma io glielo volevo dare a Falsetto, 150, però il mio c'era i canali, c'era la potenza regolabile, cazzo, ma è così. Io gliel'ho fatto vedere e anche provare, solo che lui ha deciso di prendercelo nuovo, e piglia di uno a lui, dopo di questa ne vivo di là, ha fatto i vari modifichi, a chi vuole la scheda dei canali, ma vuole la pazienza, insomma, so, c'è altro che 230, ti esce. Mette tutto a posto, Babbo Natale mette tutto a posto. E se lo dici tu, che mette tutto a posto. A me mi è uscito un affare, lo batti quei due, ho dato il presidente l'Alan 48. Perché mi è uscito questo affare qua, tanto ho detto, perché se non mi biglia, ha detto sul bigliano lui. E quindi non lo conduci. Va bene, casa era indeciso Falchetto, non è nemmeno. Perché lui a seconda di che cosa sente poi si fa un'idea, no? Era un po' indeciso, ma adesso vuole uno, vuole mandare anche l'altro. Ma io c'ho una parola solo, capito? Vabbè. Tanto non ci ho perso niente, mi li ho venduti, non c'è problema. Il mio già lo sai, era nuovo nuovo. L'ha visto anche, ha provato pure quello che c'avevo io, in macchina. E mi si trova l'affare e me li ho venduti tutti e due. Ehi, vabbè, andà, dai, Natale. E infatti. Che regalo. Chito, fa chito, non ti sentire in colpa. No, negativo. Assolutamente negativo. Sono contento se riuscite a vendere, se di cambiare, vendersi, non so. Non so che tu l'hai già fatto, comunque sono contento lo stesso. Infatti. E tu magari lì è ripreso dal fatto che l'Alan 48, a meno che sia il BSX in casa, brutto, mamma mia. Infatti mi sono fatto un resoconto, più che altro, dai. Gianni, tu vai a vendere quello nero da 400 io. Cazzo da vendere? Quello nero da 400, quello con le bottiglie. Quello è a posto, ci vogliono solo le valvole blu. Non le aggiustate? No, è a posto, ci vogliono solo le valvole nuove e basta. Per rendere al massimo. Perché ti dà pochi watt così? Sì, come una valvola solo mi dà 130 watt. Poco lì due. 400 me lo dai, due valvole ci vuole, capito là, bisogna mettere le valvole nuove e lui è un treno. Pagato, io me l'avrei aggiustato. È aggiustato, le valvole ci vuole, ma è già aggiustato, non c'è nulla da fare, ci vuole solo le valvole nuove, perché sono consumate. E chi sa quanto busta? Mi sembra 20-30 euro una, però è un treno a cui. Ma si trovano la treno? La Fusaro si trova? Fusaro non ne ha. Mi dovrebbe provare o la GBC oppure il continente via internet. Sono quelle che c'è al BV 131, solo che questo ne monta due invece di una. Ah ecco, quindi è una cosa recente, dai. Ehi, allora, Falcos. Ah, e allora Falcos c'era la GBC. Sicuramente c'era la GBC con le valvole, perché il Falcos difende la GBC, anche gli alimentatori. Una tacchiera se ce le hanno è L519 o 509 monta. E poi può uscire con due potenze qui. Si può regolare anche la potenza qua. Che bella gara. E vabbè, possiamo chiedere, non c'è problema. Ma infatti io non ne uso e non me lo voglio sbolognare. Ascolto, siamo qua. Ricordi se per la promessa che mi hai fatto? Non c'è problema. Va bene, va bene. Anche tu dici sempre non c'è problema. C'è problema. Quando lo dico vuol dire che non c'è problema. Ura, ura. Però che adesso ti faccio sentire un po' di cose che fa questo parato, guarda, sì. Allora. Va già a fare caricabatterie. Caricabagaba, Gianni a fare caricabatterie. Se per lui che aveva caricato prima. Perché? No, perché si sente anche fuori, capito? Figurati che pensava. No, si sente nella... Si sente che c'è, hai capito? Si sente nell'apparecchio. È fatto così, è fatto apposta. È come parla, ascoltala. No, eccolo qua. Ma c'è anche parla, ascolta, con l'apparecchio. Negativo. Ma il parlascolto è come da una parte, è come dall'altra, perché se non lo regoli bene ti fischia tutto, casino. Lo so, già. No, a me va bene così. Certo, me ne accorgo dallo smettere quando sta uscendo. Non fischia, non fischia perché è il microfono normale. Quando è il parlascolta che c'è i microfoni, anche se io ce l'avrei avuto non avrebbe fischiato. Sì, non si sa, dai. Anzi, se c'è qualcuno a basso, dimmelo che c'ho le referenze in chiuso. Cazzo, cos'è? Già lo sai cos'è. Guarda, ti senta tranquillamente senza sentire un minimo di voce. Ah. Guarda, se c'è qualcuno a basso, non lo sento. Dimmelo tu perché non lo sento. Magari capri due cose così, non li sento, capito? Perché lo... squelciaccia. Scappa. Adesso andate a vedere, dai. Tirate un attimino. Sì, sì, ho capito. No, non mi sono... Aspetta, sai che gaffe? Vabbè, vabbè. Ma io già mi disteggio bene, non c'è problema. Vabbè, basta baciarlo e non ci sono problemi. Vabbè, ci adegueremo. C'è fra poco ci adegueremo. Vabbè, a bere. Sì. Arrivato a questo punto. Vabbè. Non guarda mai. Poi io quei problemi no, non ce li ho. Quindi no. Per fortuna quei problemi non ce li ho. Ce li ho, non ce li ho. Perché se io uso per dire il 48 plus non sento niente, nulla completamente. Se non ho fatto un bel selettivo con l'apparecchio, che strano, vero? Non si sente proprio niente, come se lo stia modulando nessuno. E invece questo qua, un Galaxy, si sente appena appena, basta squelciarlo appena appena, non si sente più nulla. Chiappa. È strano, è molto strano, cioè sicuramente l'hanno fatto un bel bene con l'apparecchio. Se pure non credevo che fosse, pensavo fosse come una lampadata normale. Invece è il contrario. Sì, sì, è tutta un'altra apparecchiatura che c'è all'interno. Tutto un altro pianeta. Va. Tengo un QRL pulito, pulito, pulito, pulito. Oh, per nessuno. Poi anche se io a caso Dio lo senta. Se muovo in tu io non lo sento a quello là, capito? No. Anche se io li sento, deve essere forte però, deve essere in occhi. Se io ammetto che riesco a sentirlo, tengo magari, però si fa vedere più e non intendo, più, non lo sento sopra e niente, sento solo a te, hai capito? Ma deve essere in occhi però, Infatti, no, ma che io ti sento pulito, pulito adesso, non c'è nulla, sono fuori. Che cosa strana, cazzo. Se lo apro tutto li senti. Sì, è naturale che li senti. Cazzo. Io adesso sono tutto a posto, insomma, perché sono pulito adesso, sono tutto, non c'è QRM, non c'è niente. Quindi ci piace tutto adesso, mi piace. Invece io la notte l'ho chiuso, però lo sento ogni esistenza, lo sento lo stesso. Tutti quelli che mi arrivano il segnale io lo sento, capito? È un pochettino particolare. E per quello che li uso sempre questo. E infatti. No, ma questo qui, una volta che lo regoli bene, tranquillo, non si sente neanche una mocca volendo. Ah sì, sì. Infatti te lo chiedevi perché non uso altre apparecchi, uso questo, da quando c'ho questo. E quel motivo lì, perché io la notte, quando mi accendo la televisione, c'ho parecchio QRM, allora guarda un po'. facevo tutto, cambio il segnale, mi arriva, però mi arriva pulito, non sento disturbi, cioè mi arriva la voce, capito? Anche se il segnale non è la voce mi arriva lo stesso. E poi mi subito il traffico, subito la pendichito. Gli altri li accendo ogni tanto, cioè le faccio andare, ci vedete dopo pranzo uso l'altro, uso un'altra ancora. Però preferisco più questo usare la nostra, perché è più silenzioso, io attendo tutto e non faccio problemi. Vabbè, così. Ma dipende anche come lo chiudi e se lo chiudi appena appena le voci le senti, ma i segnali magari se sono bassi non li senti. Però se lo chiudi di più, se lo chiudi per dire a metà come ho fatto io, senti, non senti nulla, capito? Se sono bassi non li senti. No, questo è diverso, te lo sto dicendo, questo è tutto, si attenui tutto. Se a me mi arrivi i segnali io lo sento sempre, capito? Tanto bisogna vedere se una persona è lontana o vicino e siccome arriva normalmente, quello lì. Se una persona è bassa bassa già quando tu ce l'hai tutto aperto non lo senti più. Non lo dico a me, che per esperienza lo so. Poi. Vabbè, comunque questo qui, basta, comunque questo qui ha un attenuatore allucinante, da un bene che si sente a togliertelo completamente. Scappa. No, invece questo non te lo toglie già, questo non te lo toglie. Ma meno che il cazzo non sia proprio a livello di terra a terra, questo ci arriva anche un segnale di sette. Io ti dimostro che lo tengo tutto, lo tengo sempre, però non lo sento col fruscio, hai capito? Boh, è una cosa strana, Questo non lo so perché l'hanno fatto così. Io ho capito il tuo discorso, questo non hai capito il mio, se arriva basso là quando tu lo hai, ce l'hai tutto aperto, come tu lo chiudi, sparisce. No, no, non sparisce, a meno che non sia livelli proprio a terra terra. Allora bisogna essere tutto aperto, se lo senti pure. Invece questo qua no, per esempio il pacchetto a me mi arriva Santiago Centro. Io la tengo tutto in tempo. No, non me lo chiude completamente. Lo sento però non sento i disturbi. Capito? Per riuscire a capirlo io devo fare così. Boh, è un bel strano, no, non riesco a capire. Anche io, ci volevo fare pure così. Questo apparecchio è un bel... Non te la tengo, invece degli altri. Tu quindi la tengo in tutto, boh, magari tengo solo a te che sia a fondo scala e basta. Però boh, è un attenuatore un bel strano. Parchito, andato a sanare. Sono qua. Tu cosa mi dovevi dire al telefono? Si può dire qua? Devo dire una cosa al telefono. Guarda qualche, ecco qua, attenuato. Sì, ho fatto giù. Parla! Hola. Qualche è più basso. Hola. E ho la cipolla, qualche. Già ti sento. Retrighello quasi abbassato, però si spegne, capito? Ma tu retrighello non ne hai lì, non lo abbassi. Questo. Segnale non ne hai qua, però ti intendo. Segnale non ne hai. Pezzi, lo squezzi. No, qua apriamo tutto adesso. Falchito. Ti ho detto, lo squezzi quando l'abbasso quasi al massimo. Spariscono i numeri e quando parli si riaccendono. Cosa potrebbe essere? Lo squezzi. Quando la basso quasi al minimo si spengono le luci dei canali, capito? E poi quando riparli si accendono. E fatti in modo che abbia un consumo inferiore, magari se scaricano la batteria è proprio un fattore che hanno fatto per risparmiare corrente quando ne è poco. Ah, che affacciata. Ah, ecco qua. Bene. Cos'è qui? Che cosa? Le questo, guarda. E scappa, cos'è? La portante mia, la portante d'oro. Via, la mia fa. Ehi, ma così. specchietto. Lo fa vedere, se non mi viene l'uso, non mi trovo. Tumarella, tumarella, papà si vede guri, marciatori, marciatori. Due addirittura. Ma si perdeva. Parrucchio. Comunque te lo metto, basta qui a basi RFG, non te dubbi alle scicci, avanti Falche. Sto io così perché stavo girando. E a Falche? A Falche te lo senti? Ma non sta parlando. Falchetto! Deve essere attaccato, alla bottiglia. Sicuramente. Se si mangia una cicchetta, la buoi. Se si pone la pompetta. Ah, tra la pompetta con il motorino. Quello cosa, con quei motorini che aspirano l'acqua. Lasciarcelo un po' a lui, fa che è tutto di riservimento. Come che sono tornato! Ah, fresco come la rosa! Oh. Adesso si va quando fermenta, poi si distrando. Ma che era quella sulla frequenza già? Vai, guarda, se non faccio nulla, da voi su se li senti, te ne accorgi che. Sì. E te ne trovo la TV, no? Dai. Ma non è full frequenza, è l'effetto della potenza quella lì, è da spugna. È la strada. Accendo un po' il più al microfono già. No, si deve sentire nessuno, sento solo shhh. Vabbè, perché tu sei lontano. Ah, cappa. Come vai a lasciare più cortino tu adesso? Cortino? Ok, non sono sempre lo stesso. Più forte adesso, cosa hai messo? La padella? No, padella io. Che padella? Radio che è più forte, è la radio perché da quando c'è questo apparecchio qua la radio è più forte. La cappa, anche con gli altri. No, forse mi sono appena allontanato, mi sono, dal microfono, è per quello che mi sentivate un po' più basso. Che ne so io? Cosacci? Sono quelle lunghe lunghe. Io ho capito quali sono, non sono come le professionali, ma sono belle, sono belle. E quella è una pedalata, si chiama giù, lo dicono. Lì poi la rete mi è rimasta, la rete che mi mette fatto, la sganciata, il pugnale spesso sganciato, se può sempre la gamba, io quello lì, sempre ce l'avevo. Ho capito una rete, una direi che ti impigli per qualche cosa per uccidere. Si andrà bene, va benissimo. E non sai che cosa li usa, scemo, le pile? Cosa li usa? A portare fuori le lenti, guarda, quando è estate, anche fino alle 8:30, alle 9, esco. Con le lenti all'arco, spiaggia, me ne torno indietro. Buono, buono. Buono, buono. La maschera c'ho quella della Tecnis. Io c'ho la Tecnis Super. Anch'io ho la Tecnis Turbo, PIN da 13, la muta è buona, un bel cucinetto da quasi un metro, a elastico, già va bene. Là. Perché sono con le nere, le pinne, con le della rovine, presi su, per intenderci. No, io avevo una bella attrezzatura di fucili, ne avevo 2 o 3, ne avevo fucili. K, andare. No, io ho uno a pressione, piccolino, e questo qua che avevo come 90 centimetri. Io avevo il mini ministero, sempre attaccato alla gamba, e l'altro che usavo. Il ministero, quando c'era qualche sala lontana, toglievo quello, lo sparavo con quello. Chiamarocci. Mi sono attaccato, dai, l'altro. Ti sto dicendo che se non anticipare il mugine, lo spari, lo spacchi in due. Sicuro, sì. Il mugine è difficile se non lo anticipi, perché le salte, perché le salte, le branche, a due li pigliamo. Però non mi piacciono le salte, perché stanno troppo in superficie, a me mi piace il pesce che sta un po' giù. Stanno troppo in superficie, ti direi, ma cazzo, uno specchio di acqua, cavolo, tutto pieno di salte, mamma mia, o i mugini a branchi, oia. Bergadini, se no, già. No, no, mai visto il barracco in acqua, lo sai, quello non l'ho mai visto. Però ho visto un pesce una volta che era fuori, ma l'ho sbagliato, doveva essere una cirnia, qualcosa del genere. Era in tana, che ne cava di lungato. Come ha visto a me, ho detto, non lo miro nemmeno se non lo perdo. Rimiro lungato, miro, per modo di dire, ho sparato così, e ho girato la rocca, mi ha picciato pure la vicina. No, io siamo sbagliati, ricchissimi, più di uno pure. Yeah. Allora, camionette da chilo, chilo e mezzo, mezzo chilo. Ma io c'è un po' ombrine, coso e coso, bocca lui di chi si manimana. Beh, ti so pure chi c'è, è una ciappa di bocca lui, cazzo, dice manimana, è proprio il robetemi. Sai cosa faccio? Dove c'è la positura, no? Staccata al fondo, posto le foglie con la fiocina, proprio lo voglio uscire, come? No, sono belli, sono. Stai mezzo come niente. Tanto. Cosa sento un intima. Comunque, quell'arbaletti Scipion era una figata a vivo, L'unica cosa di brutto che c'era allora viaggiavo in tratta, ma perché ero un ragazzino, un ragazzo, però non avevo la macchina ancora, 18 anni, 19 anni, e occasione con Brava. Kappa, era stato bene. Non so se tu li conosci, però Arbaro di Sergio è un campione anni 60, anni 60, io a me me l'avevano dato in cambio di un paio di occhiali Libra. Ci avevo finto di brutto, costava un paio di naso così. Sì, siamo qui, costava un paio di naso. Guarda, un amico che se l'aveva comprato per far pescare su casa, poi non l'ha mai fatta, gli è rimasto nuovo, gli è caprato, la busta, ci aveva tutti i piedi dentro, tutto dato, magari, pallone su barco, un po', non l'aveva mai usato una volta, l'aveva che era per fare pescare su casa, poi non l'ha mai fatta, non l'ha avuto mai coraggio. Perché ci vuole anche coraggio a fare pesca subacquea, non è così facile, no? Molta la gente pensa che sia facile, ma ci lasci le fette, mi sento, se rischi troppo. Oh, dalla volta che mi sono incastrato, ho la tua. Sì, già ti guido, già lo guido. Per un sarago, mi l'ho spanciato, mi è scappato, me l'ho spanato da sopra. E si è spanciato, in figura si è riuscito ad andare sotto. Io ho preso il primo, sono andato da sopra, ho preso le fiate. Mi sono risceso, sono entrato per la fata, per il cartamento di cipresine erano un minimo 10-12 metri di profondità. E te, crocro, ci hai capito, ragazzi, ti vedi un panico. Sono uscito fuori, non male che io sempre mi sia portato il pallone, ho tirato il pallone, mi sono andaggiato sul pallone, ho fatto... Non sono quello che ti ha trovato, aveva fatto usci. Capito. Guarda, ha mangiato, poteva dire che era il ghiaccio. Ciao, buona dormita. Avanti Falcon. Ciao Antonio, buona dormita, dai. E buon risveglio. Buongiorno, sono un acceso, già mi sto ascoltando. È un po' con la scontaccia, ma stanno anch'io a farmi la pennichella. Anch'io che faccio guerra ictisi, non me l'ascolto, la pennichella me la faccio lo stesso, eh. Va bene ragazzuri, tutte le migliori, tutto a dopo, dai, se coincide. Ciao. Ciao a tutti. Dite la notte, non dormite il giorno, la notte si dorme. Guarda, senza modulare. Quanto è di picco? L'importante? Così c'è anche 50 mega, spero mi dia Vabbè, comunque. Spero che a maggio riesca ad avere quello che ha. E non c'è problema, lui c'è anche 50 mega, c'è le HF complete, le VLU ce le ha già pronte e non c'è nessuna difficoltà. Questo è il 680, lo rimettiamo al minimo. Ecco qua. Siamo a 50 l'importante, 100 modulati. Ok, cambio. Cava, cava, con la maniglia ti piace. Questo c'è la maniglia, questo non manca niente, non c'è un graffio. E non so cosa dirti. Non aggiungere altro, se no stiamo parlando anche troppo. Voi, quelli che sono in ascolto, si stanno già mossicando le orecchie, capito? Non fatti dire. Volta, scendi nel 140 e ti porti via questo. Punto. Non parlare più. Ho scritto qua al... ISS0DFB@tiscali.it. IS0, tutto in minuscolo, con lo 0, Non mettere la O, con lo 0. IS0, tutto in minuscolo, @tiscali.it, tutto minuscolo. Allora io ho scritto ISS0, sì, non è piccolo, certo. Qua mi è apparso QRZ.com. Che sono anche su QRZ.com. E quindi troverai in automatico. Se tu vai a vedere su QRZ.com, DGT, ISS0DFB, ti dà la via, l'indirizzo, tutto ti dà. No, aspetta. ISS0, sì. Ma la foto non c'è più. Via Giovanni Fattoli, ok. Però c'è la foto, però non è. Aspetta. Forse vanno qua, vediamo un po'. Ecco. Ma questa qua è di la foto. Esatto. Ricordami, quando ci vediamo ti do la QSL nuova della foto che ho adesso qua. Come ha fatto la station adesso, sì, quella è la vecchia fotografia. Se vuoi vedere la nuova, e poi ti darà sito un allestimento, clicchi IW0URT, che è il vecchio nominativo che avevo prima, e ti dà sito un allestimento. E ci sono le foto delle radio, le foto della stazione ancora in allestimento, perché l'ho messo come vecchio nominativo per fare l'allestimento. Una volta che poi l'allestimento del sito è pronto, allora lo trasformo nominativo vecchio nel nuovo. Aspetta, qua c'è un paraculo, sì, guarda. Qua è completo, ma c'è un 440, 140. Cazzo, quante belle radio ci sono qua. Aspetta, piccola ma minchia, bella, è proprio piccola ma sincera, ma non è di la verità, cazzo, a me è un mancone lungo, piccola, sei piccola, con le radio, quelle che un animatore usa, questa secondo me va troppo bene, proprio guarda, quanta opera d'arte, cazzo, manco un figlio ci vedi, manco un figlio, se ti vuoi andare, ti viva la tastiera del computer, ma se vuoi manco un figlio. Per il sigaro mi fidi adesso questa foto qua. Cazzo, bella, no? Questa sì era bella, piccola ma sì, bella, la 140 su, poi c'è la T250, 140 a fianco, cazzo, allucinante. Quella di adesso è uscita in allestimento, le radio sono uguali, non cambia niente, le radio sono sempre le stesse, anziché però fare i piani in alto, li ho fatti in lungo, ci sono 4 metri di scrivania, quindi se tu vai a cliccare su W0URT e ti dà sito in allestimento, le vedi tutte lo stesso le radio, però sono tutte appoggiate così per far vedere e poi vanno tutte allestite nel modo dell'accoppiamento, là. Del sito finito, viene molto bello, ho già fatto le QSL, Franco ce l'ha già la QSL della foto della stazione con dietro tutti i nominativi della stazione, la cartolina personale, dove c'è la foto della stazione, non ci sono io perché non mi interessa, però le radio sono uguali, non cambia niente. Sempre I, India, Italia, W0, Italia, Whisky 0, Udine, Roma, Torino, U, RT, quello è il nome attivo che avevo prima della IS0. Allora, I, W, 0, U, RT? Certo che sì. Ok, aspetta. Sono da qua. Ecco qua. Aspetta. Sì, c'è il nome, basta, è mia. La via di su, quello è. Esatto, quello è il vecchio sito che poi trasformo in IS0 DFB con il numero, praticamente la nuova postazione, capito, quella che ho in cambio di stazione, come si dice in normative, perché ho fatto il cambio di stazione da IW0 URT con nuovo nome nativo da Carbonati a Via Pascoli, capito? Quindi è rimasto il vecchio sito, che però se tu clicchi e controlli ti dà tutte le radio che io ho attualmente. Allora aspetta, qua c'è mailing label for IW0 URT, qui devo cliccare. Clicca lì, guarda che cosa ti dà. Adesso non mi ricordo che cosa avevamo lasciato indietro con Massimiliano. Allora, qua mi dà una paginetta in alto verso la destra, a sinistra, con su scritto Claudio dal cognome, il tuo vecchio nominativo, via di su, 36, e basta, Sardinia. Allora, se devi nel centro, strada Sardinia. E foto non te ne dà? No, la foto la capiva con l'altro nominativo. No, ci sono le foto anche lì, guarda, che già c'è pratico tu. Guarda, sfoglia, vai avanti. C'è invece una pagina con le foto. Aspetta, vai in aperto io a due. Allora, interessi, la fine, ma c'è nove cognome, no, col tuo. È sempre questo qua. No, mi porta a qrz.com, e poi c'è tanti nomi qua, Giorgio, Andrea, Pere, non so neanche italiani, tanti nominativi, HL, vedi, vediamo un po', aspetta, se c'è il tuo qua, IS0, vedi, ah, forse è qua, aspetta, no, data base. Qua ci sono tutti i nominativi voi, che tu non l'ho trovato ancora. Comunque mi stavo di Marco qua, vediamo il Chirighetto, Giovanni invece via Matas, poi via Matteotti, via Rockefeller, via Bellini, via Umberto, via Manca, via Stanismanca. Vediamo un po' se trovo il tuo, aspetta. Guarda che c'è, se rimane su quel sito lì, il gruppo 0 URT, ci sono anche le foto della stazione, senza andare su www.qrz.com, rimane su gruppo 0 URT, ti devo mettere leasing, una cosa del genere in inglese, se non ricordo come si dice, e comunque ci sono le foto delle radio, mi pare sia Office, adesso non mi ricordo che avevo scritto, comunque tutto in inglese, sì, poi per quello, se tu vai adesso su ISDFB e tutto in italiano, per quello l'avevamo lasciato in inglese perché non aveva fatto il sito Massimiliano Archimede, e infatti c'è scritto nel sito in allestimento, quindi praticamente non era finito, capito? Perché sotto il tuo sito qua c'è il tuo nominativo vecchio. No, sai. No. Allora, vediamo un po'. E infatti qua Sporting comincia gennaio 27 2004 IW0 URD. Ci sono anche io VS0 KB. Chiama il no, non riesco a trovarlo qua. E ora lo fa spiegare meglio a Massimiliano, ma vediamo un po' se è qua giù. Allora, qua, no, no. No, non messa qua. L'altro luogo sì, quello che era adesso. Quello l'ho trovato là. Ma c'è un'altra foto qua. Ma è cambiata. Perché l'altra che la prima era diversa, no? Del nominativo nuovo parlo, quello che c'è adesso. Sì, beh, quello è il sito ufficiale, l'ho messo anche su corazzata.com e poi sul sito all'area, quindi a livello internazionale non è attivo ormai quello, però il vecchio non è attivo, siccome ho fatto un sito come quello P0 URT, c'era anche quello lì dove ti dà tutte le radio che io ho in dotazione, capito? Le vedi meglio, le vedi meglio, perché su quello ufficiale di S0 DFB le vedi così, invece lì su quello in allestimento le avevo messe tutte una vicino all'altra e vedi specificamente le radio che uso, ecco per quello che ho trovato di andare lì, però non mi ricordo com'è. Io ho provato l'altro giorno, le ho viste e mi dà sito in allestimento, perché Massimiliano non aveva messo passo, non aveva messo niente, l'aveva lasciato così libero, perciò dovrebbe essere a vista di tutti, diciamo. Ma non è che aspetta là, secondo me è così, guarda, www.0urt.com, vuoi vedere? .it, vediamo un po', .it, qua mi ha www.0urg.it. No, magari ce ne manca qualcosina per farmi entrare nel tuo sito. No, il mio sito è uguale a quello che c'ho adesso, devi cliccare India Whisky 0 URT chiocciola discali.it, quello è il mio sito, come quello che ho adesso che cambia solo nominativo, e vedi cosa ti dà. E allora, sì, Whisky 0, ok, Udine, Roma, Torino. Discali punto it, vediamo un po', no, là non lo dà, URT chiude il discali punto it, non lo dà. Allora guarda, a me non lo sta dando, io clicco IW0 India Whisky 0 URT chiocciola discali punto it e mi dà sito in allestimento. Dal sito in allestimento in alto ci sono quattro fotografie dove clicco, in una ci sono io con tutte le radio vicine, il bancone unico senza ripiani, quindi tutte le radio dove ci sono 240, il 680, il primo che avevo, non questo, il primo, che mi cazzo attento, che è questo, che ho veduto che stava il Porto Torres, ma la diamantola me lo sono preso, quindi questa radio, il 680, allora 240, 680, 440, 920, 940, il DS2000, il 790, il bibanda base. E poi che cosa c'è? Della quelli vecchi, FT07, uno della Sommer Camp e uno della Iaesu, ci sei? Poi ci sono tutti gli strumenti, in alto nella seconda foto c'è la stessa foto, in più c'è 18:50 e tutta la parte digitale del computer. A me mi sta dando questa, è sempre proprio più zero VRT e sono tutte in linea, però non ho messo un basamento alto per separare le radio. Vediamo un po'. Guarda, avanti, aspetta. Guarda. qual è che avrò? Primarma CIP, sì, SHIP. Ah, oh, no, quella è un'altra cosa, non c'entra niente. Non c'entra niente. Non lo so, bisogna chiedere a Massimiliano, quando entra Massimiliano glielo chiediamo, perché a me è malato, passo quando non ce n'è, è libero, quindi tutti possono mandare, posso andare a vedere i siti di corredetta.com. Siccome quello è rimasto così, il sito di allestimento l'abbiamo lasciato, perché lo devo ancora completare, cioè me lo deve completare Massimiliano, perché lo sta facendo lui, Massimiliano Archimede, GP, e quindi l'ho lasciato così. Stavo guardando adesso le carte, perché ho lo stampato di quel sito di allestimento, però non c'è niente di sbagliato, evidentemente la tenuta ora, non lo so, vabbè, lo vedremo, quando andrà chi vede glielo dico, comunque lui glielo va a me, ma non lo va qua sul mio computer, non lo va, poi provate a vedere se ti dà la stessa cosa di Luca, prova a digitare W0RT a ver quella tira. Oh, Giacca, che ero distratto che ero fuori, dimmi. Digitare anche tu nel tuo il computer acceso, cioè prova a digitare W0RT a vedere cosa ti dà, lì che non è attivo. No, dai, apri, aspetta un attimo, lo sto digitando. Com'è? India Whisky 0 Delta URT. Ma che cazzo sto dicendo? Quello non è attivo. IW0 India Whisky 0 Udine Roma Torino URT. India Whisky 0 India RT Romeo India Udine Roma Torino India Whisky 0 Udine Roma Torino. Che è il nome attivo, cazzo, mi ha fatto battaglia con il nome attivo. India Whisky 0 URT URT Udine Roma Torino URT. Perché voglio lo scrivere e me lo dà e mi dice sito in allestimento, vedi pagina precedente, sulla pagina precedente mi dà IS0 DFB sito completo, quindi mi appare quella foto, Luca, che c'hai tu, quella che praticamente ho su qrz.com e nel sito internazionale dell'ARI, dove ci sono io e tutte le radio, e quindi ci sono le radio fatte messe come erano carbonati, da qua invece di fare quel piano sopraelevato a scompartimenti l'ho fatto in lungo, ma le radio sono le stesse, manca il 9.40 e le 9.20 basta, il resto ci sono tutte. Come l'ho volata? Io c'ero il dimorso di una palla, dico l'ho visto, come l'ho volata? Perché mi dice che il sito è inesistente? Magari c'è qualche interferenza di coso di allestimento, ma lo va, vai tranquillo che lo va. Okay, comunque ti ricordo che le stesse radio che tu hai sopraelevate in quella che tu hai visto a Carbonazzi, anziché fare scompartimenti così, perché non li ho voluti fare per questione di non di spazio, perché le scrivanie sono le stesse, il piano è la stessa misura di quello che aveva Carbonazzi, anziché se in altezza e in lunghezza, basta. Le radio sono a 2 a 2, a coppie di 2, una sopra l'altro, tutta in lunghezza. Comunque, tu di là sono là, no, là, quello sì. Quello lì c'è, non là. Ma già che da Massimiliano, magari, se lo sento. Qui lo vediamo. Lasciamo un po'. Ma mira tutti, mira quello di Walter, mira quello di cosa, di Marco, mira quello di Massimiliano, mira il tuo, quello nuovo, come se c'è avuto il vecchio, non quello là, nulla, non, ripeto, non mi dice che è inesistente. Claudio! Ciao, buonasera a tutti, Marco Scotti. Ciao Marco, buonasera, mi ha ascoltato. Scusa Claudio, com'era? India, Whisky, Romeo? No, allora, India, W, Whisky, Whisky, 0, U, RT. Ripeto, India, W, 0 URT, vai. Uniform, uniform Romeo, così è. Romeo, così, ciao Marco, buonasera, mi hai sentito. Vai, là. Di centenari. Influggio 0 URT, aio fra. Claudio, cosa c'è? Sei su QRZ, ci sei, W0 URT, low cap 78 collegamenti, eccetera. Dimmi, che problema c'è? Aspetta, io saluto il Premier. Ciao carissimo, ben ascoltato e buona domenica, ciao Marcoli. No, stavamo, siccome c'è nel sito quello ufficiale il nuovo nome antico, però l'ho lasciato con Massimiliano e a me me lo va il vecchio sito, quello personale che ti ricordo tanti anni fa, l'ho fatto anche con la tua partecipazione, di proprio WRT. E ho detto a Luca di cliccare, che dovrebbe darlo, perché a me me lo va, e mi dà sito in allestimento. Adesso non so dove cosa stanno facendo, però a me me lo va sul mio computer e mi dà sito in allestimento con le vecchie foto che io avevo lasciate così in mollate, ecco, però il sito è ancora da sito in allestimento, quindi non è stato completato, si chiama Massimiliano, ma deve completare e poi farà il cambio di il nominativo. E quindi stavamo vedendo questa cosa. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, a te il microfono. Sì, questo ciao, buonasera a tutti. Ma sono qua su QRZ.com, c'è tutto, ma non c'è. Qui su QRZ non è stato riportato, perlomeno, dove al vecchio tuo nominativo, non c'è il link per il sito, capito? Cioè non c'è l'iconcina che ti permette poi di collegarti sul sito quando tu vai e fai chiedi ulteriori dettagli, no? Generalmente se uno poi ha un indirizzo internet, lì su ulteriori dettagli, quando clicchi ti apre un'altra finestra dove c'è riporta il collegamento per poi andare a visitare il sito. Mentre qui nel caso tuo non ho, qui perlomeno adesso io non lo vedo, non c'è, c'è solamente c'è un amministratore che Unione un Papa, però indirizzo internet non ne dà. Salvatore Fois si aveva registrato allora, UP, però indirizzo internet non ne hai, qui non risulta il tuo sito, ma che indirizzo hai direttamente per andare a visitarlo, il vecchio sito, che indirizzo ha? Quello no, fuori da QRZ.com, fuori da QRZ, su QRZ.com allora, perché c'è la password di UP, su quello sì ci siamo, l'avevo già verificato io con Massimiliano, su quello va bene, se digiti QRZ.com, fuori da QRZ.com, normalmente su internet, se tu clicchi IV0URT, ti dovrebbe dare l'apertura della pagina del sito in allestimento. Sto facendo una ricerca, vediamo che cosa dà. Vediamo un po'. Allora Marco, io dici tu come mi dici lui. C'è i come cavolo era? I W0 URT chiocciolatistoli.it non mi dà nessun praticamente dice che non esiste il sito. Ho capito, aspetta, io sto facendo un'altra ricerca, vediamo un po'. Ma alle volte capita che se ce l'ha Claudio ce l'ha, lo riesce a vedere perché risultano ancora lui, ce li ha in memoria nel computer, ma poi realmente invece non c'è, se fa un refresh non vedrà che non va più. Vediamo un po', io sto facendo un'altra ricerca, se risulta, ecco qua, le foto del mio shark, forse ci siamo, boh, come Sommer, vediamo, non lo trova. Anche come noterà per la pagina foto del come immagine? No, clà, negativo. Massimiliano le ha aperte, non so cos'è, cacchio è quello, è un maestro in tecnologia. Allora, a me me l'aveva dato Massimiliano, io l'ho aperto anche da poco e mi dava tutte le foto, tutte le cose, compreso anche il sito di allestimento. Addirittura mi ha trovato anche Andrea, me l'ha chiamato, diceva, girando, facendo, ho digitato proprio il RT, mi ha dato la vecchia, il vecchio sito, cioè completo perché è molto bello qui e là. E invece è rimasto così perché praticamente chi lo sta facendo è Massimiliano, quindi non so che cosa abbia fatto poi lui. Forse l'ho trovato come Xomer registrato, xomer.alice.it, aspetta un attimo che sta caricando. Ah ecco, aspetta, sì, Luca, non è come tipo 0 RD che ho certificato.it, sì, c'è un altro, sì, c'è un altro accessore, il 0 RD, però è registrato come, sì. Dai, non volevo fare. Amiche, forse Marco l'ha trovato, intanto mi sto prendendo le carte io, perché io ti dico esattamente qual è il, cosa devi digitare. Allora, dovrebbe essere questo l'indirizzo, Xomer come http://xoomer.virgilio.it e poi il 00RT, e allora dovrebbe qui, fa un po' fatica perché, eccolo qua. Un attimo. Allora, http://? Xomer.virgilio.it. Ripeto, Xomer è scritto X come X-Ray, Otranto, Milano, Empoli, Roma. Xomer.virgilio.it e dopodiché /0URT. Allora, abbi fede, Marco, mi confronti. Giuliani, bisogna, quando si sta in radio, prendere un pezzo di bavaglio e una penna, eh? E quando dicono scrivere, perché sennò non mi caliberi. Vabbè, mi sono anche sdraiato, mi vedo un po' male. Vabbè, mi ha detto X00 Milano, Empoli, Roma, .virgilio.it. Ripeto, Xomer come X-Ray Otranto Milano Empoli Roma .virgilio.it poi slash che è praticamente la barra trasversale che parte da sinistra verso destra il W0URT vai e già lo apri adesso vai entra l'hai trovato io Franco è degli andrificiti sì è quello lì il sì non era inserito come il W0URT che ho certificato.it quello è il nuovo sito della ISDR. Sì, quello lì, dai. Apri. Ti vedo, guarda, c'è anche il 711, sono le foto dell'altro QTH, ma queste sono le foto della prima fase, dello sciacchio, non ci sono le foto dell'ultimo lavoro, mi sembra. No, quello è fatto, il sito non le temete, vabbè, poi... Lì abbiamo inserito il 790, il 940, il PS2000, tutte le radio che poi sono riportate nel nuovo sito, con però le nuove normative, quindi di essere DFB che ho certificato.it. Però siccome Luca voleva vedere la preparazione di quel sito, come era impostata prima che poi nascessero tutti i piani e tutte le cose, lì ci ha riportato praticamente il lavoro iniziale che stavamo facendo con Massimiliano. Infatti c'è solamente il primo piano, è quello, il primo dove c'è ci sono quei Kenwood, mi pare, no, non era un Kenwood, cos'era standard, forse che cos'era, quei vecchi HF, poi ci sono i due FST, FT7B, il 790, sopra c'è il 711, poi c'è quell'altro apparato veicolare, e poi a destra c'è il 140 e il 440, a destra ancora c'è il T250, l'apparato, cos'era questo, ecco, poi c'è un bibanda mi sembra, sì, della Kenwood, e poi un altro apparato, però è la foto di molto tempo fa, non è una foto, le altre foto che ci sono le inquadrature frontali della stazione, c'è il portatile, ci sono i palmari, Guarda, ti dico la data, ultimo aggiornamento 24 gennaio 2004. Minchia, stiamo parlando di 5 anni fa. Sì, ma è così, abbiamo iniziato a allestire quel sito in quegli anni lì con Massimiliano, avevamo tutti e due voluto zero e quindi stavamo iniziando a allestire quella cosa lì. Poi da lì è nato, avevo preso tutte le misure necessarie fatte ed è l'anno che siamo andati in fiera, che quindi è arrivato il TS2000, è arrivato il 920, poi ho preso il 940 e quindi se tu vai a vedere adesso poi il sito precedente, che è quello di S0BFB.it, che è quello che c'è su QRZ.com, oppure se vai direttamente senza andare su QRZ.com vai sull'Ari, arisassare.it, vai sulle foto dei miei soci, c'è la trazione completa che poi ho completato in riferimento a quella. E vedi, ti accorgi che ci sono 3-4 ore in più, infatti nel terzo piano, così chiamato, nel vano superiore, era nata una trazione così temporanea che in pratica non usavo neanche, perché usavo praticamente il secondo e il piano terra di quella base, perché era direttamente tante che non ce la facevo neanche ad usarle, quindi rimanevano così per bellezza. Ed è rimasto sempre lo stesso anche qua, anziché però andare in alto, perché non fa, era una cosa troppo non va bene, allora mi sono messo qua di lungo che apparirà adesso ai giorni nel nuovo sito dei sociali. Sto cambiando la foto, questo è tutto di lungo, è 4 metri lungo, con tutte le radio che sono riportate lì in quel sito nuovo come S0BFB, anziché in altezza sono riportate in lunghezza. Perché in realtà c'è almeno le fili delle gambe quando ci vedi i pantaloncini, Claudio? Ma io non voglio fare un guardo, sei ignorante, cavolo. No, guarda, HTTP, due punti, slash, somer.virgilio.it, www.urt.it. Ho capito male io? Sì, perché dopo urt.it non ti ha detto nessuno, o Luca. Somer.virgilio.it /0URT e poi dai invio, o altrimenti fai /index.htm ed è lo stesso comunque. Basta che dopo lo slash di Virgilio.it scrivi www.0URT e dovrete aprirti, la prova. Ma guarda, ma non lo apre. Qui c'è un altro prodotto, risultati di nessun documento. Allora fa una cosa, va su Google e scrivi somer.virgilio.it/info0urt e poi fai invio, vedrai che te lo trova lui la pagina completa del sito, poi ci clicchi e te l'apri, capito? Aspetta, io già pronto, non lo apre. Vabbè, su Google scrivi nei motori di ricerca Google, scrivi somer.virgilio.it/0URT, poi clicca su cerca. Ora, somer.virgilio.it/0URT, giusto? Sì, e fai cerca poi su Google. Non lo vola Marco, cavolo. Sono ora. Allora, ci vediamo in casa, vediamo un po'. Allora, la ricerca somer.virgilio.it, www.urt, non ha prodotto risultati in nessun documento. È strano perché anche il mio è un computer del mondo, eppure io sono compilato, ma i computer del mondo dovrebbero andare tutti nello stesso modo. Ma cosa vuol dire? Che non da poco fa, sto provando, niente da qua, non va. Ho fatto anche prima HTTP, due punti /, ma non ora. Allora, fa un'altra cosa, scrivi interessi, scrivi su Google, scrivi interessi e poi spazio, fai così allora, scrivi il mio, Jack, scritto S come Savona, A come Hotel, A come America, C come Cagliari e K come Kilo. Il mio Shack e poi lasci uno spazio e ci scrivi nuovamente W0URT. Vediamo un po' se così lo aggiriamo lo sacco. Aspetta Marco, mi sono un po' incasinato, ho fatto un copio di tutto, ho dovuto riaprire il coso. Il mio S, vai. S-H-A-G-K. Il mio S come Savona, H come Hotel, A come America, G come Cagliari e K come Chino. E poi? Doppio spazi, doppio 0RT. Dovrebbe trovartelo. Dico Marco, mi rabbeggi, eh? Dove c'è te invece vado a negozi? Bello con i piedi delle gambe? No, ma te li sono vecchi, no? Quella foto è carbonata, si è visto, Fra. Anche gli altri ho visto. Tu c'hai un computer un pochino troppo lento, Lu. Anche quella di Nando, guarda, ma nulla, c'è tutto quello di Arturo qua. E tu non mi sono la croce per la legge normale. URT. Ok, vediamo un po'. Aspetta. Mi ha aperto e basta. Ah, eccolo qua, no? Qua c'è un colore di YouTube, può essere, no? No, no, questo qua è il K7 in lunga WYSON. No, no, no, non è questo qua. Che casino. Ma hai fatto come ti ho detto io, su Google scrivi il mio Shack spazio W0RT, Google ti apre tutta una serie di ricerche che ti dà, e lì troverà che poi fra le varie che ha trovato ci sarà il mio Shack, il W0RT, ci clicchi sopra e ti apre il sito. Se fai passaggi così deve per forza arrivare. Ecco, adesso queste sono le immagini del nuovo Shack, un po' poca definizione alla foto qua. Comunque si vede insomma l'ultima realizzazione, insomma, perlomeno quell'altra che avevi. Sì, sì, perché lì la foto sul digitale praticamente l'ha fatta Antonio. Però era una giornata molto, molto grigia, sai, dove io le radio adesso, praticamente nella stanza quella grande, tu non sei mai venuto qua, ed è una giornata molto grigia, molto, abbiamo acceso la luce, tirato su tutta la tapparella, non c'era molta cosa, non avevo ancora l'impianto luci dei faretini che puntavano sulle radio, perché sono adesso finita, sono i fareti attaccati al muro, sai, quel discorso che avevo fatto anni fa, che lì dovevo mettere praticamente il piano in legno con sotto i faretini, qui invece sono attaccati i faretini al muro, quelli regolabili, uno attaccato all'altro, quindi non c'erano ancora quelli, perciò la radio, cioè le radio sono diventate un po' al buio. Ma in linea di massima si capisce che le radio ci sono, che il piano è quello e che insomma ce n'è. Quella foto adesso è stata rimodificata nuovamente, che andrà sistemata appena passerà Antonio un attimino, le faccio fare la foto col digitale, poi la faccio trasferire, annullare quella e mettere quella nuova sul sito dell'ARI. Adesso anziché essere con i piani, ma tutta in lungo, è 4 metri lunga, compresa poi l'aria del computer che prende insomma la tastiera, il computer si vede anche il monitor con la tastiera e tutto, però è tutta in lungo, quindi le radio sono una sopra l'altra, allineate tutte in lungo, con tutti i microfoni in fila, si vede nella foto che abbiamo già fatto, si vede nella parte inferiore gli amplificatori, quello per qua, che è quello grande che tu ben conosci da tantissimi anni, e l'altro che è il 922, che è allineato praticamente sull'altra parte inferiore della scrivania. Ma si vede tutto, è molto bella, quella è molto bella, dove io invece risulto seduto nella sedia con la maglietta e il cappellino col nominativo. Ecco, quella sarà la foto che sarà appunto pubblicata a breve su quel sito che stai guardando tu, su quello dell'ARI. Allora, qua c'è, mi ha preso 5 foto qui, e qua è una maglietta blu sopra e una striscia bianca e sotto gialla, quella è. accendo un attimo, non lo leggi un attimo, io se devo leggermi. Fotografica a bassa risoluzione. confusione per contenere di più magari foto e perché sgranata, capito? Non è un problema di luce, perché di definizione non ce n'è, non è un problema di luminosità, è proprio un problema di pixel. Lì sembra fatta con un telefonino più che con una macchina fotografica. Vabbè, poco male, perciò hai fatto tutta una tirata, un ricopiato come se la vita. Ma non ti era più congeniale, più comodo quell'altro tipo invece, così come quest'ultima versione, non è troppo scomodo essere tutta la cosa lunga dritta, no? Ma non lo so Marco, non mi sto trovando male, sai perché? Perché io ho due sedie, addirittura due, una che è sulla parte del computer e l'altra che è sulla parte del radio, e quindi non mi è così sgradevole, diciamo. Mi è più facile la pulizia delle radio, mi è più facile pulire perché se almeno ci sono scompartimenti è un po' difficoltoso, anche la parte del legno, eccetera. Tra l'altro il piano che poi avevo modificato, non quello che attualmente esiste su quella foto, io l'ho fatto fare al falegname, un piano in ulivo, proprio uguale alla scrivania di base, che era praticamente il piano iniziale dove sotto andava una linea di radio, sopra l'altra linea di radio e poi a copertura diciamo il coperchio di questi ripiani dove poi ci andavano gli scompartimenti e c'ero tutto quello in garage. Fatto molto bene la frenata perché quello l'ho fatto inizialmente, era una cosa un po' rustica, però non mi era venuta male, dove avevo fatto anche gli alimentatori tutti sotto, con lo sportello, tutti i bili ventilati, eccetera, era venuta una bella cosa gli affermati. Qua avevo modificato, però non mi piaceva, era una cosa un po' così, no, non mi piaceva, veniva questa apertura un po' così, troppo ampia, troppo, era sgradevole a vista. E quindi ho detto, ma sì, ne tolgo tutto, l'ho rifatto tutto, l'ho messo tutto in lunghezza, tipo come c'ha chiedete tu, no? Così in lunghezza, con molto più ordine, senza cugne, senza libri sotto, eccetera, senza fili che ti tagliano i microfoni, quando tiri il microfono e salta, ne tira fuori tutto, cioè una cosa fatta molto bene, appunto. Con salvavita chiuso, la scatola chiusa, stagna, nonostante sia all'interno, sotto la scrivania, con il pulsante con la luce rossa e quindi mi accende e mi indica quando ho l'automatismo generale, insomma qualcosa fatta con le canalette, una cosa fatta bene, però è tutto lineare. Ho capito, vabbè, poi se ne sistema come più congeniale, molto bene. Sentiamo Franco se è ancora arrabbiato col computer oppure se è pronto. Stavo guardando il sito dell'area di Sassari anche, stavo guardando la tesoria Matturi, tutte le antenne di Walter, tutti i lavori che stanno eseguendo, la grande, Marco. beh, c'è sempre da fare, non vedi che si sposta, si smonta, si tira, si fa, mamma mia, è così, meno male, questo fa parte del gioco. Per quanto qua c'è la pulizia astrale, detto bene comunque, cioè è ovvio che quando sono così passi un parco là sopra, è facile, mentre quando è sistemato dentro le griglie, quello è un po' più problematico, è un po' più problematico, ci vuole Swiffer. Fare qualche lavoro, no, qua ti giuro, non faccio. qualche volta che anziché svitavo via e tagliavo la forbice e mollavo dietro, perché non riuscivo a recuperarmi l'ispettore, non riuscivo a recuperarmi niente. Quando ho traslocato, che con Franca abbiamo smontato tutti i piani, tutto, abbiamo prima tolto le radio, messo nel salone, coperte col telone, in modo che non ci fossero problemi, niente, abbiamo fatto due viaggi, cioè un viaggio con due macchine per portare via tutto messo in linea, cofano, tutto bello ordinato, eccetera. Ma noi di Don Franco abbiamo recuperato minimo 30 PL morti, cioè lì dietro buttati, ma PL buoni, PL lampano, PL di quelle imbattilite, spezzoni alla grande di H100, cioè di tutto abbiamo recuperato. Senza dirti che per poter pulire tutto abbiamo usato l'aspirapolvere, si era formata la lana dietro gli scompartimenti che avevo fatto, si era formata la lana. Quindi alla fine ho detto, ma caspita, cosa devo fare? Non lo avete qua? Questa è una stanza un po' particolare, non è più lo sciacchi che avevo prima, è una stanza particolare, io non posso crearmi problemi di polvere, problemi niente. E quindi sono andato sul lineare, in modo che io cosa faccio? Decido ogni 15 giorni, sollevo le radio, passo il panno sotto, c'è uno spolvino che ho comprato antipolvere, passo e abbasso le radio, passo e abbasso le radio, e le radio di sopra rimangono sempre belle pulite senza nessuna polvere. Di là c'era la lana, Marco, attaccate alle ventole, c'era la lana, le abbiamo dovuti soffiare una per una le radio. Ci fa contare, Marco, che abbiamo buttato via un MC60 nella Mondezza. Quel profilo sì, è sicuramente più facile lavorare così, è molto più comodo. Ma adesso mi sta guardando il mio sito, è vecchissimo, ci sono le foto dell'anno 3, addirittura ci sono proprio anche le foto, c'è solamente qualche foto così, non ricordavo neanche, sono tipo 6 foto, 4, 3, 7 fotografie, vecchie, boh, c'erano anche un sacco di errori, questa era una foto che hanno provato. Poi hanno detto, vabbè, mettiamo in linea, poi la correggeremo, e così è rimasta. Sono sempre quei lavori, sì, provvisorio, dici, sì, vabbè, per adesso questa sera lo controlliamo, e sono passati 15 anni da qua è stato fatto, non so neanche da quando, ma sicuramente non c'era data, nel fondo si era messa qua, invece quando è stato fatto non è stato messo. Vabbè, vai Luca, la terra a te. Senta, mi sono un attimo chiesto, qua, mentre sotto, ma questo qua, questo Gaetano, quello che costruisce l'amplificatore, è carabiniere. Ma quello che ha dato, quello che c'è nelle foto dell'Ari, sì, quello sì, no, quello che ha dato la radio io, no, è un'altra cosa. No, nel sito di... Yeah. Sai, parlare qua di queste cose, Marco, per chi sta ascoltando, non sa che io e tu ne abbiamo comandato in tutte le maniere. Non so io e tu, tutti gli animatori, sai, vecchi polponi, quindi è così, è così. No, io il blitz che ho fatto lo scorso, vabbè, a parte quello che ho fatto quest'anno su quella linea che ho letto, è che ho già un anno, siamo a 2 anni, dell'estate scorsa, ho comprato la Ultra Bin verticale, non l'ho ancora montata, c'è un garage, infatti un franco stiamo organizzando il nuovo blitz per questa primavera, spero di farcela, eliminare lì la posizione della Mantova e montare l'Ultra Bin. Montare l'Ultra Bin verticale, così usufruisco insomma di un po' più di quello che mi serve, anche se sto lavorando, non ti posso dire, cioè, non ti dico che mi posso lamentare perché ho 60 collegamenti fatti, quest'anno per me sono tanti, soprattutto in 20 metri, in 40 metri e 50 mega. 50 mega tutte fatte con la D5RV, l'ho aperta e mi ha dato due utilizzazioni spazio. Poi volevo montare l'Ultra Bin, che è quella che mi permetterà poi di lavorare alla grande con amplificatore eccetera. E ancora ce l'ho 1 anno e 8 mesi in garage, quella l'avevo comprata da Dai, mi è costata 950 euro. Faccia! No, ma se tu vai a guardare, ti posso dare le il sito di chi? No, dovresti cambiare, perché nell'area non è stato accettato una foto di genere. Se tu vai a guardare nel sito di Walter, sai che lui guarda, assume tutti, anche se sei in pigiama, lui le fa la foto, lo scrive lì, no? Se tu vai a guardare nel clicchi di Sendero Sera Wisconsin e vai a vedere le foto del suo sito, ci sono addirittura col pigiama e la pappalina da notte, che sembra il figlio della Tiracca e Gamboni. Ma io l'ho visto sulla scala veramente, ho visto questa pancia enorme, grande sulla scala, sarebbe interrato, piazzando a bene. Insomma, a guardare io quello di essere WW, chi è questo uomo qua? Te lo dice Claudio, Marco, te lo dice Claudio, guarda tu, quello di Vidalba, Cucumiaoli, come si chiama, quello di Vidalba, e c'ha il pigiama con il berretto in testa, cioè la pappalina vera e propria di quelle notturne, sai, per lui andava bene perché pur di completare il sito, ha inserito anche quello. Basta guardarlo. Ma non è che sembra un po' piatto la verità sinistra, non è anche una cuffia. Allucinante, allucinante, almeno di FB e vabbè, sono impatto a 5 perché restate, però quello che ho fatto adesso è in divisa completa, quindi con la maglietta nominativa, il berrettino, tricche ballacche, ma se tu avrai nel sito il Walter di Aburi che ce n'è di più e di meno, capito? Chi è in piedi si sta grattando il naso con tutti i cavi che lo stanno arrotolando nelle orecchie, lì quell'altro che sta lavorando tutto al buio che non si vedono manco gli occhi, cioè, ma stiamo scherzando. Ma per me, non dico per me, per chi l'ha visto la foto migliore di tutte le radio in evidenza, a parte io, vabbè, che sono i pantaloncini corti, però dico la radio più in evidenza, la radio più in evidenza e la stazione più complessa è quella mia. Le altre sono tutte mediocri, proprio mediocri e mediocri. C'è ragione, mi pigiare per la pappalina se mi ha appena alzato. Ah, Fabrizio, questa è la civizia. Ah, questo Fabrizio abitava qua. C'è stava ancora qua, era il più forte in assoluto, proprio dietro casa mia. E anche lui, c'è un punto, non mi ricordo, anche lui è stato anche lui l'animatore. Qua a morte, no? Fabrizio è un grande animatore, Stefano. Fabrizio è un grande radioamatore, grande, grande, grande, ha iniziato veramente con grande passione, veramente, una bravissima persona, l'ho conosciuto, è scritto con un'eccezione, è un ragazzo troppo in gamba, veramente, troppo in gamba, sì, è una bellissima stazione, anche nel piccolo sta iniziando, però una posizione ottimale, abita alla fine di via Grazia Deledda, proprio la circonvallazione, 50 metri da Marco, sono attaccati, 50 metri da Marco, proprio alla rotonda, tu guardi sulla sinistra, vedi le sue antenne, in gamba, sì, Fabrizio. La conosco da un bel po', sì, infatti parlo di una quindicina d'anni fa, forse anche di più. Ci conosciamo da tanto con Fabrizio. Ma se non erro fa un'Italia la Sisa, se lo sta facendo ancora. Esatto, esatto, sempre lì, ti ripeto, una bravissima persona, un grande veramente in tutti i punti di vista, una persona molto educata, una persona molto a modo, una persona veramente ad hoc, un grande allenatore, le piace molto, una grande passione, sta iniziando, però pian pianino ho visto anche che c'è una bella parte di queste le già fatte, nonostante la sua precarietà nel mondo del radioamatore. È un grande appassionato, molto interessante come radioamatore. E poi giovane anche, poi già ne ha ancora da masticare. No, ma vero, sai, noi ogni mese che poi facciamo una riunione, sai, mensilmente arrivano tutte le QSL, quindi vedo che è abbastanza interessato soprattutto ai collegamenti. Mi piace, è appassionato, io diciamo la passione ce la sto mettendo un paio d'anni a questa parte, le bue di U sono molto da parte, per me non, diciamo sono sempre più spente che accese, però mi sto dedicando un po' le HF, quindi 20 e 40, ma ci sentiamo molto spesso ai 20 metri, ci sentiamo molto spesso. Si abita su alla fine della Teveledda, sulla sinistra, qui a 50 metri da mare. Hai visto la foto, Marco, di Cucuà? Come si chiama quello che mi dava? Non mi ricordo. Allucinante, guarda. Il pigiama di Pappalina, come hai detto tu, sembra che si sia appena alzato dal letto, perché c'ha l'aria un po' di chi si è appena svegliato. Fabrizio è qua, si sta dando da fare, tanto ho saputo che si sta anche attrezzando, si è attrezzato bene anche con le HF, preso il 7006, eccetera, eccetera, si sta organizzando un bello shack qua, sta guardando Jess, vedo un po' come è organizzata la sua stazione, che non mi ricordavo, adesso vabbè, questo fosse vecchio, sì, perché non c'è ancora il 2000. Va bene, dai, vado a prendere il caffè adesso, come sentite, ogni tanto mi sono qua a piano terra, sono nello shack a piano terra, è sempre quello piccolino, ma vedo che castagna forte qua, anche l'altra sera facendo collegamenti 40 e 80 qua con l'equipo piccolo, viaggia forte. Va bene, vi lascio al proseguo del questione, ma ci sentiamo più tardi. Ciao Franco, ciao Luca, ciao Claudio, Marco Scorpio da QRT. Ciao Marco, se noi siamo sempre qua, io, Franco, Luca, Daniele, qualche domanda, siamo sempre qua, abbiamo fatto un po' uno stacco di frequenza, siamo sempre qua, fa piacere quando ti fai ascoltare, sentire, eccetera, eccetera. Ciao, buona caffeina, buon tutto, saluti a casa, vai Franco, cambio. Ciao Marco, buona caffeina, buon tutto e saluto in casa anche da parte mia, e buona domenica. Ok, e l'antenna Lucariello, vai Luca. Sì, ciao Marco, da Concoletti, buon tutto, ci sentiamo nel prossimo. Sì, ho visto anche l'altro, vabbè, non come, non sono fortunato a mettere quello, cioè sarei fare per quelle. Giustamente, vabbè, io mi ero già accorto che la mia foto è un po' sfocata, un po' così, un po' colà, però l'evidenza delle radio, la presenza si vede, eccetera, quella adesso la rimediamo, la mettiamo nuova con tutte le radio in posizione nuove, anche i nuovi aggiornamenti, le nuove radio, nuove cose, perché in più c'è la parte ICOM che lì non c'è, eccetera, eccetera, qualche microfono in più, strumenti in più, eccetera, però sto dicendo, l'allineamento è quello, non è che cambia molto, ma che uno, cacchio, faccia una foto col pigiama, la pappalina da notte, perché si vede che è una pappalina proprio vera e propria, non è una cuffietta, sai, di quelle che usiamo noi per uscire fuori in strada, eccetera, si vede che è una cuffia da notte, si vede, il pigiama celeste, ma stiamo scherzando. Seduto lì nella sedia e ti fai fare la foto e mi inserisci nel mio sito, ma io non ti voglio neanche vedere, ma girami i bibirici. Ma non c'è una foto in quel sito bella come te, l'unica foto bella, nel senso è un po' disordinata, però potrebbe essere ancora più bella, però si vede che è lineare, dove c'è tutto, una bella scrivania, una bella redazione di shack, è quella di Andrea, ecco quella già, poi c'è una foto di stazione, quella è già una foto di stazione, quella di Andrea, ma gli altri fanno ridere, fanno piangere, non ridere, fanno piangere, quello al buio, facendo le saldature, quell'altro con tutti i carri che lo stanno mangiando, quell'altro in piedi, con tutta la cosa come si chiama? Insomma, lasciamo perdere, non voglio criticare nessuno, però le foto sono foto, vanno messe come devono essere messe. Non è quello il problema, però non fa quella, fai bene. scappa, no, ma via, vabbè, comunque, ognuno si deve andare via e buonanotte. Poi ho messo il musica nominativo di Giovanni, diciamo, proprio, Giovanni, quello di Motorette, dai, se capite che sto dicendo. E gli ho dato tutto come si dice, vabbè, tipo la macchina fotografica, no? Ci cliccavo e mi arrivava le foto, ma non c'è, non mi arrivava le foto. Sì. Ma sono tutte così, non c'è problema. Anche se va, su quella mia c'è la macchina fotografica che rampeggia, clicchi e tira la foto alla stazione. Ok, cappa. Va bene. Ognuno fa quello che piace, a me piace fare le cose fatte bene. Io ci vuole, sono abituato a perdere del tempo, a fare le cose fatte bene, Ciccio non ho nessun problema, tu lo sai come lavoro io. Qua ci ho perso giornate e ancora sto sempre controllando, facendo, per vedere se c'è qualcosa che posso modificare, fare, però non. Per il momento no, potrei benissimo sollevare anziché ricambiare, vedere, ma l'ho fatto così, portando sul piano, dal garage, ma non mi piace, è molto più alta di prima, non devo appendere per accendere la radio, no, tutto lineare mi piace, l'ho vista, la volta, fatta così, mi piace, va bene. Posso pulire, fare, io ho tante radio, non è perché ci voglio, per carità, ci vengono tutti che fa radio a miei livelli, come Marco, come tutti, ce ne abbiamo tante, perché ne abbiamo tante, quindi bisogna distribuirle in una maniera tale dove viene bene lavorare, viene bene spostarti, infatti i microfoni sono tutti in fila, eccetera. Il piano è molto più basso, le amplificature sono sotto, ci dai vicino, gli alimentatori, ho eliminato i switching, sono tutti quelli di linea, quindi sto parlando di alimentatori da 300 euro l'uno, sono quelli della Kenwood, PS50, e quindi ho eliminato tutta la parte che non mi interessa. Ho fatto una cosa fatta molto bene, anche l'illuminazione che prima non avevo, faletti a muro, tanto già l'ho vista, va bene. Ma è bellissimo quello orologio che ho preso stamattina, sai la faccio? Quando scendiamo a Polotose ne prendo un altro gemello e faccio uno avanti e uno va indietro. Faccio l'ora punto amatoriale. Metto tutti e due uno a fianco all'altro, uno GMT e uno normale. Ok, avanti Franco. E domani mattina quando scende te l'ho preso. No, io non ero orologio, non mi piace ne avere l'orologio qua, in stazione, perché ne uno, cioè lo so, l'ho staccato, l'ho portato giù, bella quella statua, hai visto, abbiamo recuperato qualcosa di buono stamattina, no, fra, chi fa radio non mi dice queste cose a me, perché si sente Marco ti critica, gli orologi in stazione ci vogliono, quindi io usavo a suo tempo quelli analogici, tic, sembrava quando modulavi che c'avevi la bomba in mano trasmettendo, adesso sono quelli digitali, li mettiamo a fianco uno all'altro, uguali, dove sposti l'orario GMT e quello normale, dove quando fai i collegamenti dai un'occhiata e dai l'orario GMT per il collegamento. E l'orario ci vuole, le registrazioni ci vuole, una parete, ci vogliono tante cose, quindi ciccia, ma a suo tempo noi, Marco ci ha notato, tu immaginate che per ogni radio avevamo uno strumento, per ogni radio avevamo uno strumento, sono analogico, poi chiaramente sono arrivate radio un po' più aggiornate eccetera, dove gli strumenti sono inseriti e quindi non fai altro che controllarti dalla radio stessa tutta la parte della strumentazione. Ma prima, a suo tempo, ti parlo del 94, 95, 96, avevamo per ogni radio uno strumento, quindi immaginate tu un casino che c'era. Erano più i cavi di commutazione che quelli di trasmissione. Sì, guarda, mi ero fatto un attimino. No, io non ho staccato con un fattore lì, no, perché stavano dei problemi, sono passati 2-5 anni, intanto stavo sempre accortato, 3-3-3-3-3-3, e quindi non ho staccato completamente. Staccato del tutto, capito, tutto staccato, e gli aerei oggi non c'è stato neanche andare a riposare, te lo immagini. Adesso sono 4:10, non c'è problema, anzi ho fatto adesso una, un quarto d'ora, 20 minuti, vado a bermi una cosetta, devo preparare quell'ananas che ho comprato a Ilaria che esce alle 4:30, così almeno la frutta la mangia, dai, sono qua comunque, sono in radio, sono in radio, fra, non spegnere niente, allontanati, io sono qua sul canale 40, dai. Che mi allontano 10 minuti, 4 ore, e poi riprendo, ok? Ciao momentaneamente a Luca, ciao a te e a quelli che stanno ascoltando, ci sentiamo tra 10 minuti e 4 ore, ok, fra? Vabbè, anche io sto più ora, sto facendo cosa qua, dai. Ciao Luca, ciao Claudio e ciao anche quelli che sono in ascolto. Ciao, allora, ciao, anche per il posto, grazie. Ciao Luca, via, ciao. Oh, non ti dimenticare che cosa devi fare. Io sono qua, mi ti chiamo tra 10 minuti che preparo sacco gelato. Cosa? Ma Franco, tu dicevi, non dimenticarci cosa deve fare. Io tra 10 minuti sono di nuovo qua. Mi sto ridendo a me. Stavo, ci sentiamo più tardi, addio, mi sento di sbattere anche là. No, io sono qua, non devo sbattere a nessuno. Sono qua, è un canale unico. No, dico, se in caso magari non c'è nessuno, beh, è qua, dico. Quindi da adesso sino a domani. ormai da... è tutto grigio. Ho guardato un poco fa, nella regione Sardegna c'è scritto variabile con precipitazioni in arrivo nella tarda mattinata di domani. Quindi, vedi bene, e quello è reale, perché via computer dal SAT, quindi da lui non vede il canale 5 o la emittente, a voi da via computer vi ho già detto. Dove ti dico? Ah, ciao Fredrico, buon giorno. Purtroppo è guai, e sono i guai, e sono Mattisci. Sì, ecco, non ha fatto un tragitto, quando arrivi, non c'è problema. Quando non si può prendere la moto, si prende la macchina. Stamattina sarà bello, ma domani credo che non sia per niente bello. E qua io vedo l'altro giorno, e le nubi sono molto molto basse, in attesa di pioggia. Guarda, voi che ti dica, non so che dire, non lo faccio, in prima, non lo faccio. Io a tutti i dici, già va bene lo stesso, già va bene, già va bene. Non problemi. A te sta ballate. Ah, già ho un po', già ho visto che ci sono delle nuvole nere, lì. Ci sono, sto dicendo. Non si vede il cielo quando inizia a imbrunire, com'è la situation, capito? Si vede. Diventa più scuro, si copre, non è questione di nuvole basse o foschia, è proprio nuvole che stanno caricando. Già sta cosa. Ah, ti abbassi. Allora, lascio vedere. Già si è alzato. Lascia stare così, non c'è problema. Non lo mettere al massimo, lascialo a 40 watt, importante, già va bene. Già picchia poi, non c'è problema. Infatti l'ho fatto scaldare, sta scaldando, e se è salito adesso l'ho regolato poco fa. Ai teni. Sì, ma se è riuscito a casa, anche questa già è tibia, anche questa già è tibia, già funge, già va bene. Non problemi. Sempre così a 80. 140 in 10 metri, lo spostato e l'altro in 40 metri. 10 e 20 e 80, no. 140 in 40 metri, 4 e 30 in 80 metri, l'altro 140 in 10 metri, questo l'ho messo con il 27 e il 440 in 20 litri. Cosa fai se 80 fino a 60 arriva? No, guarda la 60. Guarda la 60 arriva a quello. Guarda la 60 cos'è modificata? Questa fa 0, 50, 2 e 300, e poi 52, 500. La sintonia continua. 52-500. È sufficiente. Non problema. Questo è così. Sintonia continua. Senza problemi. E sei conferma. Però non ne vale l'aria. L'aria si abbigliai. Io ci credevo. Ma chi ha cosa ti fa l'aria a te? Mica ti bagna, non ti bagna? No, ma non dovrebbe piovere. Lascia piovere fra tutti. Lascia piovere fra, lascia piovere. Devo zappare, se piove è un casino zappare, capito? No, fai vantaggio fattivo, io la campagna l'ho giocata tutto a cimento. Così non zappi. Chiami la bettamiera, ho fatto tutto 10.000 metri di calcio e trusso. Meraviglia. Cima di zappa, è tutto la camminare in macchina, tutto, questo. Lo fa, è bello. Adesso metto due porte e giochiamo a pallone. Ah no, due baretti, un pezzo di rete e tre caballati. Sopra detto io vogliamo mangiare, io vengono mangiamo lento e avrete tutto a cemento armato. Cosa ci vuoi fare? Purtroppo è voi. Già va bene, ma ho sentito Daniele tutto il giorno, ieri ne oggi. E sarà malato, non c'è fatica. È malato sicuramente sì. Mi sono in itinerario, si trova di arrivi, vabbè, c'è le 5:15. Sono le 5 e mezzo, arriverà la 6:20. Bah. Che te ne godi. Eglia. Oh, io... Tutti i giorni sono per ammaiato la poltrona, no? Dove si ha? Cosa che la mangia? Sono annoiato, cazzo, cosa va? Mi sto annoiando. Non ci voglio più fare, mi sto scocciando, mi sto annoiando, non so cosa fa. Io non so cosa fare. Sto annoiando, ti sto. Ah, ti stai annoiando, basta scendere te. Noi siamo qua. Stiamo aspettando l'aria. Avevo fatto la volta fa, 4 ore, di solito per poi cambiarci. Già la macchina mi fa posteggio. Noi siamo qua, fra. Ti stai annoiando, basta scendere. Sono qua. Sveglia. Ok. Mi sto prendendo un caffè, qua. A che me lo drummendi? Ho uscito un caffè. Sono riuscito a dormire tutta la notte. Io non sono dormito nulla, ero dormito sveglia, gira e ti fa, bro. Che fa? Tutto io, perché a me me lo fa a volte, gira, perché ci sono a mattinata quando ti piacerebbe lavorare. Eglia, e sei conferma. Tu preparatevi, scendi, siamo qua intanto. Quella roba, te la stacco. Ah, cazzo, ma io in inglese lo vedo in italiano. Tanto è staccata, ti prendi questa che si è modificata a 3 euro. Scendi alla radio, ti porti via questa. Grazie, metto quella maniglia. Metti la maniglia e scendi nella e ti prendi questa, non è problema. Devo cercare le vite di quella maniglia che ho messo qua. Io ho due di quelle maniglie. Ti fanno togliere quelle maniglie, le viti no, togliere alla maniglia stessa per non perdere, perché quelle viti non si trovano. Le viti ce li ho, c'è la maniglia e le viti. C'è la maniglia e le viti. Ma c'è la maniglia, se ce li ho io le conservo le cose, quindi una, due, c'è la poco sentire quello che serve. Ma se c'è fatto nulla ci garage, vai qua. Vediamo che cosa la fa, mi ha attaccato domani, vedi la roba di ieri, la notte. Tutta la rondezza, amici, tutto per me. Quella penna la stavo cercando, ma non l'ho trovata da nessuna parte. Non c'è. Beh, ti sei fino a fatto. Non lo so fare, ma lo giaccio. Se ho fatto non me la ritrovo neanche io, ho rotto le palle. Adesso devo per forza fare qualcosa. Se no è un gasino, capito? Vabbè, tutti i bimbi. Se hai detto che se non la trovo, vado a dire ciccio. Perché quei contatti ci servono. Ci servono per le guardie, servono. Siamo in 4, ed era 1 per 1. Ma sono senza antenna, no? Vabbè. Già c'è tempo ancora. Non è un problema, ancora. Vabbè. cercato, ecco, l'avevo cercato che io mi conservo nel suo contenitore qua, se no un casino. Va bene. Non stavo guardando quella roba che tu sai. Non avevo il funzionamento, la cosa, no? Babbo, dai, attacca questa manetta, preparati, scendi, siamo qua. Sì, adesso lo stacco, l'attacco con la manetta, ci metto a questo, no? Un attimino, quindi la frutti, a vedere. Ok, dai, ci sentiamo dopo, ok? Siamo qua, attacca la manetta, attacca la radio, scendetene qui, non perdere niente, attacca solo la radio, lascia tutto com'è. L'alimentazione, l'antenna e l'attacco della T250. E scendi qua. Sono qua, ti aspetto, ciao. Non ci vede neanche il cazzo di vignette.